Irrinunciabili per Radio Big World presenta L'arte di vincere, un film di Bennett Miller. Come spesso accade, i film americani che trattano di sport vanno ben oltre l'aspetto sportivo. È un pretesto per raccontare una storia. Per loro lo sport è un riflesso della vita, perché è un paese giovane, con poca storia. Così la loro mitologia sono gli eroi del basket, del football, del baseball, che sono vere fonti di ispirazione e di valori per le persone. L'arte di vincere è questo tipo di film. Un film sul sogno americano, un film sugli underdog, ovvero quelle persone che partono svantaggiate, che sono un po' sfigati, che hanno contro tutti e tutti, nessuno pensa che possano vincere. È un film sul riscatto, sulle seconde possibilità, ed è tratto da una storia vera. Gli Oakland Athletics sono una delle squadre più sfigate della Major League. Stanno nella parte bassa della classifica. Come spesso accade, devono vendere i loro giocatori migliori a chi ha più soldi di loro. Hanno un mercato limitato, così come i loro sogni di gloria. Non hanno un posto sotto i riflettori. Billy Bane è interpretato da Brad Pitt, che è il general manager, e ritiene che tutto questo sia ingiusto, perché alla fine non c'è partita, si perde già in partenza. Come si può competere contro chi ha 4, 5, 6 volte le possibilità che tu hai? Non si può. Billy, da ragazzo, era una promessa del baseball. Gli osservatori che lo avevano contattato gli avevano promesso una carriera folgorante, però non è stato così. Non è riuscito ad imporsi e la sua carriera è durata poco. Ha anche un divorzio. E una figlia, che vede ogni tanto. Ed è il general manager di una delle squadre peggiori della Lega. Fondamentalmente gli è andato tutto male. E il suo fallimento giovanile gli pesa ancora. E è un macigno. Per cui, ora che è divenuto manager, cerca ancora quel riscatto che non è riuscito a ottenere da ragazzo. Questo è un aspetto originale del film, poiché di solito le pellicole sportive del genere sono incentrate su un atleta. Qui invece abbiamo un manager, anche se però questo manager ha le sembianze di Brad Pitt, per cui è un po' sui generis, e vi assicuro che la tensione e tutta la sofferenza che prova sono sono degli aspetti molto sanguigni. È un manager tosto, un manager d'assalto. Si può dire che non ha paura di sporcarsi le mani. Un incontro comunque cambierà la sua vita, come spesso accade. L'incontro ha le sembianze di Peter Brand, che è Jonah Hill. È una figura faccioccosa, nei modi goffi, e conferisce al film quel l'ampio respiro che ha bisogno. È una figura che si drammatizza. È un giovane ragazzo, un economista, e col baseball sembra che non ha nulla a che fare. Però è un visionario, come Billy. Per cui, quando due visionari si incontrano, qualcosa state sicuri che succede, sicuramente. Vogliono cambiare le regole del gioco, perché entrambi ritengono che nel baseball professionistico si fanno fin troppi errori di valutazione, giocatori strapagati che non lo meritano, oppure giocatori considerati bidoni, dei brocchi, che invece potrebbero dare tanto. Per cui vogliono cancellare tutto quello che si conosce su questo sport e escludono dal loro progetto gli osservatori, che la prenderanno male, l'allenatore, anche lui la prenderà molto male. Cominceranno a vendere i giocatori più forti della squadra, e attenzione, è ancora una storia vera, loro l'hanno fatto veramente, perché non rispettano certi parametri, e compreranno altri giocatori che invece sono considerati da tutti dei brocchi. Per cui hanno contro tutti, stampa, osservatore, allenatore, tutti pensano che stanno commettendo un suicidio sportivo. I loro parametri sono basati sulla statistica. Questa è una cosa molto bella, perché loro sfidano tutti, sfidano le convenzioni, partono dalla loro intuizione e si affidano alla statistica, dei numeri, che sembra qualcosa di freddo rispetto alla rivoluzione che stanno facendo. Giudicheranno i giocatori da un punto di vista oggettivo. Vogliono togliere gli aspetti soggettivi. Per cui una buona misura per valutare un giocatore è la sua abilità nell'aiutare la propria squadra nel fare più punti rispetto alla squadra avversaria. E tutto questo me lo dirà chi? Le statistiche. Per cui, secondo il loro motto, è che non vogliono comprare giocatori, ma vogliono comprare punti. E alla fine sarà veramente una vera rivoluzione, perché i grandi team della Lega cominceranno ad adottare il loro metodo. Il baseball è lo sport più tradizionale americano. Pensiamo al migliore con Robert Redford oppure a Kevin Costner con l'uomo dei sogni. È una metafora della vita. La sua morale, i suoi messaggi sono applicabili a tanti aspetti del vissuto quotidiano di tutte le persone. In questo caso abbiamo la seconda possibilità, il mito del vincente visto però con gli occhi di chi ha sempre perso, la voglia di non arrendersi davanti a sfide più grandi di te. Sono solo alcuni dei messaggi fondamentali del film. Personalmente mi ha emozionato parecchio. Qualcuno forse lo potrà trovare un po' lento, ma il film ha diversi meriti. Innanzitutto quello di non strafare. Non ci sono fasce di sbordolamenti emozionali, non è chiassoso e tocca le corde giuste delle emozioni. Poi ci sono grandi attori, una regia giusta che fa il suo e dei messaggi che possono essere condivisi da tutti, che possono essere fonte di ispirazione. Per cui avrete capito che non importa quanto voi capiate di questo sport. Io non ci capisco niente di baseball, perché il baseball è solo una cornice per raccontare l'avventura di alcune persone, di quello che hanno fatto. E alla fine di tutta questa storia non si può non pensare a come si fa a non essere romantici con il baseball. Buona visione.